Che, con cara. La tiene un negro sos combo. Africano, yo, china. Buongiorno, bentornati su Radio Wombat, siamo qua, faremo la rassegna settimanale, appuntamento che tutte le settimane va in onda il lunedì con repliche il mercoledì e il venerdì all'ora di pranzo e all'ora di cena. Questa è una rassegna particolare perché si occupa del tema delle migrazioni. Andremo oggi a trattare argomenti in particolare concentrati sul continente africano, parlando dell'attacco a Timbuktu da parte delle truppe jihadiste e le esercitazioni congiunte che sono avvenute in Sahel con la partecipazione anche di un contingente italiano. Parleremo poi della missione italiana in Niger, delle questioni tra Kenya e Somalia, l'innalzo di vari muri e anche l'apertura di faglie. Tratteremo poi ancora la questione della Proactive Open Arms, nave sequestrata in Sicilia, così come anche la Juventa, nave che è stata sotto accusa di collaborazione con i trafficanti di uomini. Affronteremo poi le questioni che sono accadute sull'isola di Lesbo in Grecia, per poi passare a altri confini, quelli italiani, quindi la questione di Bardonecchia, di Ventimiglia e poi anche questioni interne al nostro Stato con vari sgomberi. Vi mando ancora un po' di musica e siamo pronti per partire. Eccoci tornati, ho qui accanto a me Lello, che per la prima volta è qui a fare la rassegna stampa, e Mad, che invece avete già sentito nella rassegna stampa migrante della volta precedente. Iniziamo appunto dalle questioni africane, in particolare al Mali, perché così pubblica Africa Express in data 15 aprile 2018 con un articolo di Cornelia Toglase. I jihadisti attaccano la base militare dei Husky Blu a Timbuktu, nel nord del Mali. Quindi lei riporta: la base della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite a Timbuktu è stata attaccata da un contingente delle truppe jihadiste e un kamikaze si è fatto esplodere nei pressi della base con a seguito tiri di armi pesanti, in particolare del mortaio, hanno portato all'uccisione di un casco blu, mentre perdite più sostanziose della milizia jihadista. Questo è un fatto, diciamo, abbastanza nuovo, perché la base di Timbuktu non aveva di fatto mai subito attacchi di questa portata. Questo rientra un po' nella situazione del Mali e del Sahel, che si sta rivelando sempre più incandescente, non solo per il Mali, appunto un po' per quell'area dell'Africa. Questi tipi di attacchi si stanno intensificando, in quanto appunto a inizio aprile addirittura in Niger era stato rapito un operatore monetario tedesco. Oltre a questo, mentre sempre in Mali circa anche questo all'inizio di aprile, in particolare a Guelock, sono stati uccisi due soldati della missione ONU in Mali, anche qui con l'utilizzo di armi pesanti, e si aggiungono alle ingenti vittime nelle truppe dei caschi blu, perché dall'inizio della missione in Mali, che risale a luglio del 2013, hanno perso la vita circa 100 persone. Mali, sappiamo bene quali problemi sta affrontando, sappiamo bene anche qual è il passato, perché in quanto ex colonia francese ancora si porta dietro tutti i problemi dell'epoca coloniale. Timbuktu è un luogo simbolo del Mali e della popolata, e soprattutto del popolo Tuareg, in quanto venne fondata proprio nel V secolo d.C. proprio da loro. È soprannominata addirittura la città dei 333 santi, che addirittura è considerata un patrimonio dell'UNESCO. Andiamo avanti, non cambiamo argomento, perché sempre da un articolo di Africa Express, questo più recente, del 21 aprile del 2018, sempre di Cornelia Tolgais, e qui ci parla invece delle esercitazioni che sono svolte nel Sahel e si è sponsorizzati principalmente dagli Stati Uniti, ma con la partecipazione anche di un contingente italiano. Lei dice: è terminata la maxi esercitazione militare Finlock 2018, un addestramento regionale tra Africa, alleati e forze speciali del controterrorismo USA, che si svolge ogni anno dal 2005. Nell'edizione di quest'anno hanno partecipato soldati delle forze armate di ben 20 nazioni, soprattutto dai 5 paesi del Sahel: Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali e Niger, ma vi hanno fatto parte anche quelli di Camerun, Nigeria e Senegal, senza scordarci invece soprattutto del contingente europeo, che proveniva da paesi quali Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Si è trattato quasi di 1.900 soldati. Naturalmente Washington insomma, gli Stati Uniti sono il paese che principalmente sponsorizzano questo tipo di esercitazioni, e è un paese fra l'altro presente in Niger con ben due basi, una addirittura nella capitale Niamey, l'altra invece ad Agadez. Sono presenti anche tedeschi, che addirittura stanno costruendo una base aerea all'aeroporto di Niamey per facilitare l'intervento delle proprie truppe in Mali, ma anche i francesi dispongono di ben due basi, anch'essi ne hanno una nella capitale Niamey e la seconda a Madama, che questa dovrebbe servire addirittura d'appoggio per i nostri soldati, anche se non è, lei allora diceva, anche se non è ancora arrivato il via libera da parte del governo nigerino per il dispiegamento. Vedremo poi quello che è successo. Angelino Alfano ha fatto sapere che le trattative sono con Niamey sono tuttora in corso. Quindi durante queste due settimane, dal 9 al 20 di aprile, le truppe suddivise in piccoli gruppi si sono esercitate in più discipline, dal paracadutismo al combattimento in zone urbane, alle tecniche di liberazione di ostaggi e molto altro. Loro naturalmente sostengono di andare a opporsi all'immigrazione e al traffico di uomini, ma sappiamo bene che gli interessi su queste parti di mondo sono ben diversi, perché sono paesi con una grande ricchezza di mineraria, di materie prime, e ci sono veramente tanti tanti paesi pronti ad approfittarne, in primis gli ex coloni, i paesi, soprattutto la Francia, ma non sono i soli. Quindi, per quanto concerne il nuovo contingente del Sahel, dice l'articolo, gli Stati Uniti restano prudenti perché non vogliono impegnarsi in questo genere di iniziative, malgrado il finanziamento di 60 milioni per il nuovo corpo militare tutto africano. Quindi non vanno direttamente loro a combattere, ma come a loro abitudine sponsorizzano eserciti vendendo, sponsorizzano eserciti per poi farli combattere di fatto al loro servizio. Non, queste sono notizie leggermente datate, perché le ultimissime notizie dicono che invece Niger stoppa militari italiani nel paese. Questa è una notizia data da Radio Onda d'Urto, e loro dicono questo: la missione militare italiana in Niger, approvata dal Parlamento a gennaio per bloccare esplicitamente i migranti e foraggiare, e foraggiata da 50 milioni di euro, di fatto è naufragata. Il margine del Niger è uno dei paesi più poveri al mondo, ha infatti il regime del Niger è uno dei paesi più poveri del mondo, ha infatti detto no all'arrivo delle truppe italiane. Non ci sono però ragioni di tutela dei migranti, bensì le pressioni della Francia, appunto, perché Parigi non gradisce interferenze, le interferenze di Roma in una zona, quella subsahariana, che ritiene di propria influenza anche dopo la fine del regime coloniale. Pure la Tunisia di fatto si comporta in questo modo con il governo italiano, perché dice no ad un accordo da 7 milioni di euro per spedire 50 militari italiani nelle zone desertiche al confine con la Libia, e anche qui pare che ci sia dietro il veto francese. Quindi la Francia è ancora molto influente in tutta questa zona e di fatto impedisce ad altre nazioni di essere influenti, nonostante insomma l'influenza che intendono loro si fa soprattutto con le armi. Detto questo, dobbiamo anche parlare un attimino di questa missione italiana in Niger, che è sfumata, e grazie a questo, proprio per questo, abbiamo trovato degli articoli che sono stati pubblicati sull'Espresso. Il primo è di Andrea De Giorgio e si intitola così: tutti i pericoli della missione italiana in Niger, l'iniziativa militare decisa da Gentiloni è piena di rischi e di ombre. E urano, uranio, petrolio, gas naturale, oro e diamanti presente nel sottosuolo fanno gola a molti, quindi spiega il perché del veto da parte del governo francese. Lui dice: il Niger è il principale crocevia dei traffici illeciti che transitano nella regione, quindi si parla di droga, di armi e di esseri umani, ma non solo, perché anche valuta, macchine, sigarette, medicinali e altri prodotti contraffatti che sono, attraversano i porosi confini di sabbia che sono difficilmente controllabili dai paesi africani. A seguito dei precedenti interventi occidentali in Libia 2011 e Mali 2013, questa regione del mondo è caratterizzata da una forte instabilità di praticamente tutti i governi, e possiamo benissimo vederne gli effetti, perché di fatto le persone scappano da questi posti e sono disposte ad affrontare un viaggio pericolosissimo per poi approdare sulle coste europee, che loro sperano, vorrebbero trovarvi rifugio, invece molto spesso sono ostili alla loro presenza. Quindi le risorse del sottosuolo, di cui il Niger è ricco, fanno gola a molti, dicevamo: vi è l'uranio, vi è il petrolio, vi è il gas naturale, diamanti, oro e altro ancora. Ci sono molti colossi, molte multinazionali che sono sul luogo ad estrarre questi generi, queste risorse. Se ne cita alcuni: Areva, che è un colosso energetico francese che è presente dagli anni 50, nonostante e si occupa di delle estrazioni di uranio, perché addirittura continua ad estrarre da qui circa un terzo del fabbisogno delle centrali nucleari della Francia. Tutto questo di fronte all'80% della popolazione locale che non ha accesso alla energia elettrica. Questo appunto è solo un esempio, perché appunto abbiamo detto che anche altri paesi, come ad esempio la Germania, non ha intenzione di rimanere indietro nella corsa al Niger, alle risorse del Niger. Comunque anche l'Italia appunto si era buttata in questa folle corsa, addirittura aveva aperto la prima ambasciata nella regione, questo era successo a febbraio a Niamey, e l'avevano fatto un po' in vista dell'accordo e della presenza di un contingente italiano sul luogo. Il governo Gentiloni dimostra a Emmanuel Macron la rinnovata volontà di collaborare, ma di fatto questo non gli viene permesso. Quindi, come denunciano diverse organizzazioni della società civile nigerina, i cui leader sono costantemente minacciati e incarcerati, l'economia, già fragile della regione di Agadez, è stata duramente colpita dalla criminalizzazione delle migrazioni decise l'anno scorso da Yusufu, che è il presidente nigerino, per accontentare le richieste europee. La parziale chiusura di Agadez, antica porta del deserto, ha reso il viaggio dei subsahariani di passaggio del nord del Niger ancora più pericoloso, lungo e costoso. Non sta portando a un contenimento delle partenze, bensì ma all'aumento dei dispersi nel deserto, che sono stimati all'incirca fra i 2 e 3 volte superiori a quelli nel Mediterraneo, anche se è un calcolo veramente molto molto molto complesso, molto molto complesso da fare. Un ulteriore articolo che vogliamo citare è sempre anch'esso pubblicato su sull'Espresso, scritto da Alberto Negri, e si intitola La missione italiana in Niger fra gli interessi della Francia. In teoria andiamo in Africa a bloccare i migranti, in pratica faremo soprattutto un favore a Macron, perché i cugini d'Oltralpe hanno nella regione fortissimi interessi economici. Qui parla in particolare degli interessi economici di Macron, cita altre multinazionali che sono presenti sul luogo, cita la Total, che mette a bilancio in Africa 1/3 della sua produzione mondiale di petrolio, mentre parla nello specifico del Niger, dove la società francese estrae il 30%. Torniamo a quella precedente, l'azienda che estrae uranio, quindi questo l'abbiamo già detto. Comunque non sono solo questi gli interessi, perché la Francia nel 2016 è stato il secondo esportatore di armi nel mondo dopo gli USA, e il Sahel è uno dei suoi clienti più di riguardo. Ancora di più è la posta, ancora più alta invece è la posta finanziaria, e alcune fonti citate da Negri appunto parlano della questione di Gheddafi, quando allora il presidente era Nicolas Sarkozy. Cita una mail inviata a Hillary Clinton in data 2 aprile 2011, dove il funzionario Sidney Blumenthal rivela che Gheddafi voleva sostituire il franco CFA con un'altra moneta panafricana. Lo scopo era naturalmente di rendere l'Africa francese indipendente da Parigi. Questo naturalmente non è successo, perché poi abbiamo visto come è stato approcciato il problema Gheddafi, ma per spiegare un minimo di che cosa si tratta, Alberto Negri dice: il franco delle colonie francesi d'Africa, creato in contemporanea con gli accordi di Bretton Woods nel 1945, è una moneta imposta a 14 ex colonie francesi. Le ex colonie hanno il 70% della loro riserva depositata al tesoro francese, quindi la Francia ha anche il potere di determinare quanti franchi CFA si stampano, quindi le tiene a guinzaglio, se così si può dire, perché probabilmente questo è ben più di un problema. Di fatto è così. Tutti i paesi delle ex colonie francesi hanno grandissimi problemi economici, e molti di essi si possono additare a questo tipo di trattamento. Bene, io vi mando una piccola canzone, un pezzo di canzone, un attimo di pausa, non ci lasciate, perché torniamo veramente subito. Lampabel muridina madegen per le niña. Eccoci tornati ai microfoni di Radio Wombat. Ricordiamo, trovate i podcast sulla frequenza wombat.noblogs.org. Ci potete ascoltare sulla frequenza 1359 AM, anche se probabilmente non ci sentirete molto bene, ma problemi tecnici ci impongono di migliorare la nostra trasmissione. Dunque, andiamo avanti con la rassegna stampa. Rimarremo nel continente africano, ma andremo sulle sponde del Kenya e della Somalia, dove si innalzano muri, ma non solo, perché la natura fa il suo corso e si è aperta proprio poco fa, pochi giorni fa, una faglia che pare avrà degli effetti piuttosto grossi sul continente africano, ma questo ce lo spiega Matt. Sì, eccoci qua. Allora, mentre appunto una faglia sta spaccando il continente, appunto separando due placche tettoniche, e appunto nei prossimi migliaia di anni apparentemente si separeranno in due continenti, noi innalziamo dei muri. Qui ci troviamo appunto sul confine tra Kenya e Somalia. Abbiamo trovato un articolo pubblicato dall'Internazionale, un articolo ormai un po' datato, pubblicato il 29 marzo, che però appunto presenta una serie di racconti intitolata Un mondo di muri, e pubblicata inizialmente sul giornale brasiliano Folha de São Paulo. Una serie di racconti che appunto tratta di muri e barriere che nel corso degli anni si sono state appunto innalzate, sono state costruite. Questa serie appunto denuncia il fatto che dal 2001, quando ne esistevano, ne venivano contate 17, oggi sono circa 70. Questo muro che è stato costruito ormai nel 2014 sul confine tra Kenya e Somalia misura al momento circa 5,5 km su un confine appunto che è di circa 700 km, e è giustificato dal governo keniano come difesa da l'entrata nel paese in Kenya di terroristi provenienti appunto dalla Somalia. Questo dice un funzionario del governo di Nairobi, Fredrick Shisha. Dichiara appunto: il motivo principale per costruire una barriera è impedire le incursioni dei terroristi che entrano in Kenya dalla Somalia. Per lo stesso motivo oggi viene portata avanti la richiesta, il progetto da parte del governo keniano di chiudere un campo profughi di Dadaab, dove al momento vivono circa 235.000 persone, perché è appunto considerato un pericolo per la sicurezza nazionale. La costruzione di questa barriera appunto sulla frontiera è legata ovviamente a quella che è la storia della Somalia. Difatti l'articolo va a sintetizzare quelle che sono state le vicende politiche dal 1960 ad oggi, ovvero dall'indipendenza della Somalia dall'Italia e dal Regno Unito, dalla presa di potere tramite un colpo di stato militare di Mohamed Siad Barre, che appunto nel 1969 ha abolito la Costituzione e instaurato appunto un regime militare molto sempre più autoritario. Successivamente questo regime venne ribaltato dal congresso della Somalia Unita, ma dopo appunto questa caduta del regime, la situazione è, diciamo, degenerata, si è complicata, perché il congresso si è diviso in due fazioni, scatenando quindi una guerra civile che ha causato decine di migliaia di morti e ovviamente anche un grande flusso di profughi verso il Kenya e altri paesi vicini, confinanti. Nel corso di questa guerra civile che appunto si è scatenata, si sono cominciate a formare dei gruppi di estremisti islamici che hanno appunto attirato molte persone. In particolare si è cominciato ad affermare circa nel 2006 il gruppo di Al-Shabaab, che appunto inizialmente promuove il nazionalismo somalo e vuole imporre uno stato fondato sulla Sharia, e successivamente ha appunto dichiarato fedeltà ad Al-Qaeda. La storia è proseguita con un attacco in Kenya, un attacco appunto un attacco terroristico in Kenya nel 2013 a Nairobi e successivamente un altro nel 2015 nell'università di Garissa. Nonostante appunto la presenza dei soldati della missione dell'Unione Africana, La guerra tra le forze fedeli al governo e i miliziani jihadisti continua appunto per anni, e nel frattempo la situazione peggiora drasticamente sia dal punto di vista alimentare che sanitario, e appunto la popolazione si è ritrovata in condizioni tremende. Tutto ciò ha portato appunto a un esodo enorme, si contano circa 1,5 milioni di profughi interni e nel 2012 appunto è stata approvata una costituzione provvisoria con la nomina del presidente Hassan Mohamud, che ha segnato, diciamo, l'inizio di una nuova fase politica. Nel febbraio del 2017 è salito al potere il nuovo presidente Hassan Mohamud, e nell'autunno appunto successivo è avvenuto appunto nuovamente un attacco terroristico effettuato da Al-Shabaab, che ha colpito appunto Mogadiscio con un attentato che ha causato la morte di circa 600 persone. L'articolo quindi appunto cerca di sintetizzare quella che è stata la storia, diciamo, politica della Somalia in questi ultimi, diciamo, anni, cercando appunto di collegarla a quella che è l'innalzamento di muri per bloccare appunto i migranti che cercano di fuggire da questa situazione che si ha in Somalia. Passo a questo punto la parola a Bricco Baldo. Sì, perché cambiamo leggermente sponda del Mediterraneo, andiamo a finire nelle acque mediterranee, ma anche in Grecia. E l'unica cosa che volevo fare era quella di mandarvi una piccola canzoncina prima di ritornare qua. Vediamo se ve la trovo, qualcosa di carino. L'avevo trovata ma l'ho persa, e allora non mi resta che mandarvene una a caso. Thank you. Avete sentito Punk Islam, CCCP, fedeli alla linea, quanta nostalgia. Torniamo non all'Islam, ma al mondo dei migranti, questa volta nel territorio europeo. Parliamo un attimino di quello che è successo in Grecia e in particolare sull'isola di Lesbo, dove la situazione si fa molto difficile, in verità è molto difficile da un bel po', ma in particolare abbiamo da portare la nostra solidarietà a 35 migranti che sono sotto processo per aver partecipato a una rivolta all'interno del centro di detenzione di Moria e Mitilene sull'isola di Lesbo. Questo avremo poi un approfondimento alla fine di questa rassegna. Comunque, fondamentalmente, il campo di questi su quest'isola di Lesbo vi è il problema è che ci sono circa 2000 persone che sono ferme in una situazione veramente molto molto precaria. Sono persone che fra l'altro si sono organizzate, perché il 17 febbraio scorso oltre 200 migranti tra cui donne e bambini hanno occupato a Mitilene piazza Saffo per la protesta contro la segregazione e le condizioni di vita sull'isola, la detenzione, le deportazioni e la notizia della morte di un afgano in seguito alla mancata assistenza medica, avvenuta in realtà successivamente dopo giorni di coma. Quindi l'occupazione della piazza è una pratica che si ripete in continuazione, si è tanto da portare il 17 aprile all'attacco dei migranti da parte dei fascisti del movimento patriottico di Mitilene, tra i quali vi sono dei noti appartenenti ad Alba Dorata. Quindi cantando slogan e cori come bruciamoli vivi, buttiamoli al mare, i fascisti hanno aggredito le migranti lanciando bottiglie di vetro e pietre divelte dai marciapiedi, razzi di segnalazione e petardi. I migranti si sono però difesi incordonandosi in una tripla catena umana circolare intorno ai bambini, soprattutto cercando di proteggerli dal lancio. La polizia ha anche circondato lo spot di Moria per impedire che i migranti venuti a conoscenza di quanto stava avvenendo e intenzionati a supportare i loro compagni potessero uscire. Avremo poi, questo è un articolo che noi abbiamo preso da Radio Onda d'Urto, i cari compagni di Radio Onda d'Urto, che comprende anche una intervista ad Anna Clemente dell'associazione Lungo la Rotta Balcanica, ma come detto appunto avremo un approfondimento su questa questione. Vi diamo qualche piccolo aggiornamento, uno in particolare di un fatto che abbiamo raccontato un mese fa sempre nella rassegna Migrante, dove abbiamo parlato della nave spagnola Proactivia Open Arms, che era una nave che era stata sequestrata dalle autorità italiane perché aveva rifiutato di consegnare i migranti alla Guardia Costiera Libica. C'era tutta una questione, fra l'altro, che pare che la Guardia Costiera Libica in quel caso prendesse ordini dal governo italiano, di fatto controllati dal governo italiano, ma gli ultimi aggiornamenti dicono, attraverso un articolo di Annalisa Camilli che è stato pubblicato su Internazionale, tolti i sigilli alla nave spagnola Proactivia Open Arms. Quindi il giudice per le indagini preliminari di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ha deposto il dissequestro della nave dell'ONG spagnola Proactivia Open Arms, che era ferma nel porto di Pozzallo dal 18 marzo, dopo aver soccorso 218 migranti in due diverse operazioni al largo della Libia. La nave, attiva nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale, era stata sequestrata su ordine della procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, nell'ambito di un'inchiesta per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e associazione a delinquere. Il sequestro era poi stato confermato il 27 marzo dal GIP di Catania Nunzio San Pietro, ma si era dichiarato non competente in materia, aveva lasciato passato il fascicolo appunto al GIP di Ragusa. era caduta l'accusa di associazione a delinquere contro soprattutto il capitano Mark Reig e la coordinatrice del soccorso Isabel Montes Mier, lasciando però in piedi invece l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, però cosa che di fatto è caduta anch'essa. Naturalmente hanno ricostruito tutta la questione e dice sempre Annalisa Camilli, nel decreto di sequestro il giudice di Ragusa ha ricostruito la cronologia dei soccorsi avvenuta il 15 marzo 2018 a largo delle coste libiche, basandosi sulle testimonianze degli imputati e sulle loro memorie difensive, sul rapporto del comando generale della capitaneria di Porto Italiano e sulla nota del comandante della nave alpino della Marina Militare Italiana attiva nell'ambito della missione Mare Sicuro. Emergono tre elementi importanti: il giudice conferma che gli spagnoli non si sono coordinati con la Guardia Costiera Libica compiendo un atto di disobbedienza, ma riconoscendo la legittimità riconosce la legittimità di una zona di ricerca e soccorso libica, ma sostiene che i soccorritori si sono trovati in uno stato di necessità perché i soccorsi finiscono solo con lo sbarco in un posto sicuro e i migranti non potevano di fatto essere riportati in Libia, in quanto sappiamo benissimo che la Libia e i porti libici non sono assolutamente dei posti sicuri. Infatti il giudice stesso ha riconosciuto che la Libia è un luogo in cui avvengono gravi violazioni dei diritti umani, con persone trattenute in strutture di detenzione in condizioni di sovraffollamento, senza accesso a cure mediche e a un'adeguata alimentazione, e sottoposte al maltrattamento e stupri e lavori forzati. Quindi è andata così la questione, quindi la Proactivia è pronta a ritornare a solcare i mari del Mediterraneo e a portare via persone da o una morte certa nelle acque oppure un ritorno nei lager, nelle prigioni libiche. Altra notizia che ci rallegra è quella invece dell'altra nave che era sotto sequestro, la Juventa, che è stata scagionata dalle accuse di collusione con i trafficanti. La nave era stata sequestrata più di un anno fa perché le istituzioni italiane sostenevano che fossero in contatto con i trafficanti di esseri umani libici e che avesse trasportato, di fatto avesse raccolto migranti, lasciando di fatto però i tre gommoni con i quali erano arrivati lì di averli lasciati in mare, con addirittura persone a bordo che sarebbero tornate sulle coste libiche per poi iniziare un nuovo viaggio. Naturalmente questo non è assolutamente vero e infatti Internazionale con una notizia in esclusiva smentisce queste accuse, portando video e fotografie che dimostrano esattamente il contrario, cioè che queste navi, in verità questi gommoni, in verità sono stati svuotati e poi bruciati proprio per evitare che potessero essere recuperati dai trafficanti e riutilizzati per nuovi viaggi. Detto questo, io lascio la parola a Mad, che andrà avanti in questa rassegna. Vai, Mad. Probabilmente ha qualche problema col microfono. Prova adesso. Ok. Sì, eccoci qua, risolto il problema con il microfono. Torniamo a parlare delle vicende che sono accadute e stanno avvenendo sul confine tra Italia e Francia. Ne avevamo già parlato appunto nella puntata scorsa. Torniamo a parlare di nuove notizie. Abbiamo preso un articolo della stampa francese pubblicato dal quotidiano Reporter, scritto da Pierre Snardoufoui e pubblicato il 23 aprile scorso. L'articolo appunto parla delle vicende avvenute tra il 21 e il 22 aprile a Colle-l'Echelle, sul confine appunto tra Italia e Francia. Quello che denuncia appunto l'articolo è un atto anti-migranti che è stato organizzato e portato avanti da un gruppo di estremisti dell'estrema destra francese, un gruppo appunto che si chiama Generazione Identitaire, e della successiva risposta da parte di un gruppo invece di militanti sia italiani e francesi, che hanno superato la frontiera per manifestare contro questo atto appunto dei militanti francesi di destra. Il giornalista appunto di questo quotidiano francese è andato a intervistare sul luogo persone sia di questo gruppo appunto Generazione Identitaire sia abitanti del luogo. Questi militanti della destra francese, manifestando appunto, hanno creato una sorta di frontiera di persone per bloccare l'ingresso ai migranti in Francia. Dichiarano appunto di non voler far passare più persone da quel confine, poiché l'Europa non è in grado di accogliere, l'Europa e la Francia, tutta la miseria del mondo, così appunto dichiarano dalle interviste. E dichiarano inoltre che la maggior parte degli abitanti appunto della zona sono d'accordo con loro e li ringraziano addirittura per questo atto. Infine dichiarano che denunciano la mancanza di un controllo da parte della polizia di questa frontiera. Dall'altra parte, le interviste che sono state appunto fatte agli abitanti del luogo smentiscono un po' quelle che sono le dichiarazioni di questi militanti di Generation Identitaire, i quali appunto non si trovano in parte d'accordo appunto con loro, e smentiscono anche il fatto della mancata presenza della polizia sulla frontiera. Anzi, dicono che la eccessiva presenza della polizia mette sempre più a rischio le persone che vogliono passare, perché appunto si ritrovano a tentare la fuga in una zona estremamente pericolosa, specialmente nel periodo invernale, appunto a causa della neve e del gelo. Questo appunto atto di antimigranti è stato fatto al Col l'Echelle, il colle che è diciamo quello più basso e quindi più facile da superare. Colle della Scala, sì, in italiano. In italiano. Questo parlamentare della sinistra francese, Jean-Luc Mélenchon, scusatemi, chiede appunto al ministro degli interni di agire per fermare e per evitare azioni di questo tipo, che appunto devono essere considerate assolutamente inaccettabili. Il giorno successivo, quindi il 22 di aprile, è stata organizzata una manifestazione di risposta da parte di militanti sia italiani che francesi, che hanno appunto manifestato contro questo atto, e l'eurodeputato Daniele Viotti ha appunto denunciato anch'esso la manifestazione da parte del gruppo di estremisti francesi, dichiarando appunto sì alle manifestazioni, no alla reazione di frontiere che non ci devono essere. Militanti appunto del gruppo Generazione Identitaire sono stati scortati la domenica appunto dalla polizia per evitare che incontrassero questa contromanifestazione che era stata organizzata, e si è conclusa con appunto la chiusura di questa manifestazione da parte di manifestanti della sinistra italiana e francese, che hanno superato il confine arrivando appunto attraversando il confine con la Francia e scortando una quarantina di migranti all'interno appunto del paese. Sì, esatto. In particolare la contromanifestazione è stata organizzata e portata avanti dalla rete Brise Le Frontiere, rete attiva in particolare sul versante italiano. Li abbiamo sentiti ai microfoni di Radio Wombat nella scorsa rassegna migrante, ma li abbiamo sentiti anche in una corrispondenza con il programma Fuoco alle Polveri, potete trovare i podcast. È una rete che è nata lo scorso autunno proprio per in solidarietà e in sostegno ai migranti che tentano di attraversare la frontiera nelle grandissime difficoltà che sono presenti, soprattutto in inverno, a causa della neve e delle temperature estremamente basse. Di fatto adesso le nevi sono in via di scioglimento, la presenza di gendarmi e di polizia sul confine sta aumentando, rendendo più difficile l'attraversamento, ma ricordiamo anche che Brasile Frontier ha aperto un presidio nell'Alta Val di Susa. A Clavier hanno occupato insieme ai migranti una stanza in una chiesa che si chiama Gesù, scusate la pronuncia, ma ecco, quindi se volete ulteriori informazioni potete andare a consultare la pagina Facebook di Brasile Frontier, potete riascoltarvi i nostri podcast. Detto questo, niente, si può notare ancora una volta come la gendarmeria e insomma le forze dell'ordine scortino al sicuro i fascisti che inneggiano alla xenofobia, mentre i manganelli vengono alzati e utilizzati soprattutto verso chi si oppone a questo tipo di manifestazioni. Questa non è storia nuova, ma non ci scorderemo mai di dirla e di raccontarla. Quindi, detto questo, noi andiamo dentro i confini italiani, vi deliziamo un poco con una canzone, ma non scappate perché torniamo veramente subito. Eccoci qui, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono Lello, è la mia prima volta qui in radio, la prima volta in radio in assoluto, e quindi siate clementi con me. E sono due le notizie che mi sono state assegnate da questa specie di comitato di redazione wombattiano, penso che si dica così, wombattiano, annuiscono. E gli argomenti sono all'interno del nostro territorio, uno al confine e un altro invece nella capitale della nostra città, ma tanto ormai sappiamo e siamo consapevoli di come i confini non sono più soltanto quelli tradizionali, ma attraversano le nostre città, le nostre metropoli, nei vari settori della società. Allora, Andremo a parlare di due vicende, di due scomberi, uno a Roma, al Pigneto, e l'altro invece a Ventimiglia. E lo spunto lo prendiamo da due radio amiche, Radio Onda Rossa e Radio Onda d'Urto. Partiamo da Roma, dalla capitale, perché è avvenuto quello che è l'ultimo atto di una serie di sgomberi che ha visto la comunità senegalese protagonista, perché lì al Pigneto, in via Campobasso, la comunità senegalese aveva radici storiche ormai decennali e si era anche integrata, tanto è vero che di fronte agli innumerevoli sgomberi che hanno subito, diverse persone del quartiere hanno portato la loro solidarietà, hanno cercato di difendere queste case e queste abitazioni. E spesso e volentieri, come dicono gli stessi compagni di Radio Onda Rossa nella loro trasmissione che potete trovare in podcast sul loro sito, la comunità è stata criminalizzata, hanno cercato di accusarla di essere responsabile del degrado del quartiere, dello spaccio e di altre storie. Ma puntualmente in tutti gli sgomberi che ci sono stati non sono mai state trovate tracce di droga, se non invece borse utilizzate dai ragazzi senegalesi nella loro vendita. Ed ecco che anche in quest'ultimo caso questa casa è stata sgomberata, appunto in via Campobasso, se non vado errato, numero 18, e con l'accusa di essere collegata a uno scantinato dove dentro ci sono stati trovati numerose borse con marchi contraffatti, e quindi avvenuto l'ultimo sgombero. Direi che però forse la notizia sta non tanto nello sgombero, poiché ormai siamo abituati a questo tipo di azioni da qualsiasi tipo di consiglio comunale, colore politico ci sia nelle nostre città, appunto la destra, il PD o anche i 5 Stelle. Ma è stata la risposta di un settore del quartiere che si è mosso in solidarietà con gli abitanti di questa casa. Andiamo invece adesso, spostiamoci sui confini con la Francia, a Ventimiglia, dove invece è avvenuto lo sgombero non di una casa, ma di un grande campo che si era formato ormai dal 2016 e che ha visto la cronaca, è stato oggetto di cronaca negli ultimi anni, poiché è stato sottoposto spesso e volentieri ad azioni della polizia. In questo caso purtroppo dobbiamo invece registrare come sia proprio una parte della popolazione locale che ha chiesto a voce alta lo sgombero di questo campo, poiché questo quartiere, mal tollerava la presenza di questa tendopoli che era nata sotto questo ponte lungo le rive del fiume Roya. Ecco che anche qui si può andare su Radio Onda d'Urto, dove viene riportata non solo la notizia con un piccolo testo, ma ci sono due interviste molto interessanti fatte a Stefano Bertolino, che è un giornalista di Fanpage e che era lì appunto testimone di questo sgombero avvenuto il 18 aprile, quindi il giorno prima di quello avvenuto a Roma. Andando a cercare la storia anche di questo di questa tendopoli, mi sono imbattuto in un sito abbastanza interessante, scritto da compagni. Il sito si chiama Parole sul confine e l'articolo è un gruppo di compagni che appunto cercano di raccontare quelle che sono le storie individuali di queste persone che attraversano i confini tra l'Italia e la Francia, e l'articolo è scritto prima dello sgombero e si intitola appunto Verso lo sgombero dell'accampamento dei migranti, la quiete prima della tempesta. E fa una piccola storia, vorrei leggervi alcune frasi di questo testo, perché ci fa capire un po' quelle che sono meccanismi e di come questi flussi di persone si muovono, cambiano direzione, si organizzano al buio anche spesso e volentieri di quelli che sono i riflettori dei mass media, per poi apparire all'improvviso di fronte a queste azioni della polizia. Appunto, scrivono: dalla primavera del 2016, un poco alla volta, sono sorti accampamenti spontanei sotto al ponte del cavalcavia che costeggia il fiume. Qualche copertura buttata su pezzi di cartone sono stati i primi segnali di un insediamento precario, eppure necessario, per trascorrere le notti di attesa tra un tentativo e l'altro di attraversare la frontiera italo-francese. Poi sono spuntati, tra i migranti più organizzati, i primi sacchi a pelo, materassi e stoini. E così questo, che era un primo riparo di fortuna sotto questo ponte, comincia a prendere forma, e il testo continua. A un certo punto qualcuno ha ritenuto necessario sistemare una zona del campo, tra sterpaglie e ghiaia polverosa, per adibirla a moscheo. Tappeti, grosse pietre a delimitarne l'area, uno scaffale arrugginito per ordinare due o tre scritture sacre. Ed ecco, vediamo appunto come anche negli angoli del nostro mondo, sotto i ponti, l'umanità si organizza, e come l'umanità costruisce, trasforma anche quelli che possono essere ambienti molto degradati, ma le trasforma a propria immagine e somiglianza. E continuano i compagni: sono stati recuperati un paio di generatori e fornelletti da campo. E sentite l'ingegnosità della nostra specie. Qualcuno particolarmente ottimista e intraprendente aveva aperto in una di queste baracche un chiosco takeaway con tazze di latte caldo, samosa fritti, piatti di verdura calde. Ed ecco che appunto prende vita quello che è una città ai margini, di nascosto, invece dell'altra città, quella benestante. Ovviamente non sono tutte rose e fiori, non voglio dare una visione romantica di quello che è questa tendopoli. Gli stessi compagni descrivono più avanti come scoppiano liti violentissime tra le differenti nazionalità, e quindi come purtroppo anche nella miseria e nella comunanza di una speranza, di un tragitto, di un viaggio per ricostruirsi un'esistenza dove emergono le divisioni tra uomini e donne appartenenti a nazionalità differenti. E continua: per il controllo del traffico, per aggiudicarsi una tenda vuota, per furti reciproci nei pochi beni con cui viaggiamo le persone migranti, per la stanchezza, la paura e la frustrazione. E così via. E così via. Noi sappiamo anche, perché anche stessi compagni hanno denunciato come la stessa mafia e anche di altri paesi hanno provato a gestire questo traffico verso la Francia. E le istituzioni come si muovono? Le istituzioni si rifiutano anche solo di prendere in considerazione una struttura di transito dignitosa e protetta per le donne e i minorenni. Resta a disposizione il famigerato, chiamato così dai compagni, famigerato campo della Croce Rossa, troppo distante e troppo pericoloso per chi non può e non vuole rischiare di finire tra le mani della polizia. E quindi che cosa succede? Arriva la notizia, la decisione da parte del comune, della questura, dello sgombero. E quindi nel frattempo sotto il ponte ha iniziato a diffondersi un clima strano, l'aria malinconica di qualcosa che sta per finire, ma anche reazioni di orgoglio da parte di molti. Non tutti sono disposti ad andarsene, anzi. E diciamo che questa comunità di 200 persone reagisce anche in maniera diversa. C'è chi, una ventina di loro, accettano di finire nel campo della Croce Rossa di cui prima, altri si sparpagliano nella città nella speranza di parcare il confine o di aspettare i tempi migliori. E con questo vi saluto per quanto riguarda l'Italia. Molto bene, abbiamo l'ultimo aggiornamento, anzi l'ultimo aggiornamento, ma che in verità è un approfondimento. Prima di questo vi mando una canzone. Maledetto vile, sporco denaro, tinto di rosso, sangue innocente, chi più ne ha va legalmente a tirar bombe sopra la gente. Maledetto vile, sporco denaro, anime blindate col conto pieno, dolce l'amore, la follia è leggera ed il dolore costa di meno. Vile, sporco denaro, vieni a trovare, fatti vedere, per arrivare a fine mese, per la decenza e pagar le spese. Sentite in sottofondo Bobo Rondelli con Maledetto vile, sporco denaro. E noi, dopo le sue note, andiamo a leggere il comunicato dell'Assemblea di Solidarietà per i 35 migranti perseguitate sull'isola di Lesbo, al campo di Moria. Questo è un comunicato che ci è arrivato direttamente dai compagni genovesi del centro sociale Buridda, che tratta la richiesta politica di solidarietà per i 35 migranti del campo Moria perseguitati dalle autorità greche. Ci leggerà, sarà letto da Matt. Sì, eccoci qua. Allora, il comunicato dice: dopo la conclusione delle indagini preliminari, la data della prima udienza del processo per i 35 migranti accusati di aver partecipato alla rivolta, che si era svolta nel centro di detenzione di Moria, il 18 luglio 2017, è stata fissata per il 20 aprile nella corte a giuria mista di Chios. Qualche parola sugli incidenti di quel giorno. Da mesi i rifugiati si organizzavano per i loro diritti a causa dei grandi ritardi nel trattamento delle loro domande di asilo e delle misere condizioni in cui sono costretti a vivere nel centro di detenzione di Moria. Il 17 luglio un gruppo di migranti, principalmente di origine africana, aveva annunciato che avrebbe continuato la protesta con azioni ripetute. La protesta annunciata è il risultato di varie proteste più piccole e più impulsive che hanno avuto luogo nel centro di detenzione della città di Mitilene. In quel periodo molti dei migranti che si stavano organizzando per resistere alle politiche repressive dello Stato erano stati minacciati dalla polizia, la quale aveva affermato che avrebbe presto scoperto chi era il capo del centro di detenzione. Pertanto i lavoratori delle ONG li avevano esortati ad interrompere le proteste in fretta. Martedì 18 luglio, durante il sit-in al di fuori dell'Ufficio Europeo di Supporto per l'Asilo, protesta che ha portato i dipendenti dello stesso a lasciare i loro uffici, le autorità sottolineavano che i migranti che protestano erano a loro volta responsabili del trattamento ritardato delle domande di asilo, facendo sì che un altro gruppo di migranti si rivoltasse contro di loro. Successivamente i migranti in fuga lasciavano il campo per bloccare la strada principale all'esterno. Mentre urlavano slogan fuori dal campo, le forze dell'ordine dall'interno e dall'esterno del centro di detenzione li hanno attaccati con pietre, gas, lacrimogeni e granate stordenti. I migranti risposero lanciando pietre contro la polizia e dando inizio a piccoli incendi. Dopo il conflitto, l'interno del centro di detenzione era tornato alla normalità, ma le forze di polizia hanno iniziato una vera e propria purga all'interno di Moria. I migranti si sono trovati a dover affrontare la minaccia della polizia antisommossa, che ha preso d'assalto i container, picchiando chiunque in modo indiscriminato, per poi arrestare 35 persone a caso, arbitrariamente. L'unico criterio usato dalla polizia era il colore della pelle, poiché si rivolgevano a persone di origine africana. Gli arrestati sono stati portati al Dipartimento di Polizia Centrale di Lesbo, dove sono stati trattenuti senza alcun aiuto medico, nonostante avessero subito gravi percosse. Solo uno degli arrestati è stato portato con un'ambulanza all'ospedale direttamente dal centro di detenzione, a causa della perdita di coscienza dopo aver subito un colpo potenzialmente mortale alla nuca. Durante il mese seguente circolavano voci su arresti complementari che terrorizzavano ancora di più i migranti intrappolati e che hanno portato molti di loro a lasciare le loro tende e i loro container per paura di essere presi di mira. La situazione di insicurezza creava quindi un'atmosfera di impotenza, passività e un sentimento di disfatta generale. Dopo essere stati picchiati e terrorizzati, i 35 accusati sono stati portati di fronte ad un investigatore, accusati di gravi accuse, tra cui in particolare il cosiddetto incendio doloso aggravato dalla messa in pericolo della pubblica incolumità. Questa accusa può portare ad una condanna a molti anni di reclusione e simultaneamente esclude gli accusati dal processo di asilo. Le quattro accuse in totale sono le seguenti. Incendio doloso con messa in pericolo per la pubblica incolumità in concorso. Lesioni aggravate, tentato oltre che eseguito a danno della polizia e dei vigili del fuoco in concorso. Danneggiamento aggravato compiuto tramite incendio doloso di proprietà straniera e di oggetti ad utilizzo pubblico in concorso. Resistenza aggravata, travisamento, trasporto di oggetti potenzialmente pericolosi. La Corte ordinava la detenzione preventiva per 30 degli accusati, mentre i rimanenti 5, il ferito grave e gli altri 4 migranti, che non hanno avuto un interprete per un mese e mezzo, hanno visto ordini di residenza restrittivi sull'isola e l'obbligo di presentarsi al Dipartimento di Polizia 2 volte al mese con obbligo di firma. Dei 30 detenuti, 10 sono in carcere sull'isola di Chios, 13 a Korydallos, Atene, 6 nei centri di detenzione minorile di Avlona, Attica, e 1 è stato trasferito da Avlona alla prigione di Maladrino, che è della Grecia centrale. I problemi seri sono derivati dalla loro separazione, poiché sono stati imprigionati lontano dai loro avvocati e dai loro amici, aggravando enormemente il loro isolamento e la loro incertezza, mentre ponevano ostacoli significativi alla loro preparazione per il prossimo processo. Questa pratica è stata applicata ai prigionieri politici in passato, così come in un caso analogo riguardante 8 immigrati perseguitati per i fatti di Petrou Rally. Inizialmente la loro difesa era stata assunta da avvocati attivi delle ONG dell'isola e dal momento in cui il caso ha iniziato ad attirare l'attenzione pubblica, altre ONG sembravano intenzionate ad adottare alcuni dei casi giudiziari. Tuttavia, solo pochi giorni prima della data del processo, le ONG Solidarity Now, Metastasi e Synaxis Lesbos hanno annunciato il loro ritiro dal processo. Di conseguenza, la situazione già problematica risultava gravemente aggravata, dal momento che gli imputati dovevano trovare nuovi avvocati. Oltre ai migranti rappresentati da avvocati di organizzazioni non governative, 9 dei migranti perseguiti saranno rappresentati da avvocati appartenenti a gruppi di solidarietà. Il ruolo che le autorità giudiziarie svolgono nelle pratiche anti-insurrezionali diventa anche chiaro nella sede del tribunale scelto. Il trasferimento del processo a Chios è in contraddizione con la decisione della Corte di imporre ordini restrittivi a 5 imputati. Nonostante i giudici siano consapevoli della precaria situazione finanziaria degli imputati, il processo si svolgerà a Chios e dovrebbe durare diversi giorni, il che comporta enormi costi di residenza oltre alle spese di viaggio. Inoltre, l'ubicazione del processo crea gravi limitazioni alla presenza di testimoni in loro difesa. Poiché gli eventi hanno preso parte al centro di detenzione di Moria, molti dei testimoni oculari sono migranti sottoposti a restrizioni amministrative, che non hanno la possibilità di lasciare Lesbo. Lo stesso si può dire per molti testimoni locali. A causa del trasporto limitato tra le due isole, la presenza quotidiana è resa impossibile, per cui i testimoni dovrebbero mettere in pausa i loro lavori per un periodo di tempo indefinito e a qualsiasi costo. La rimozione delle testimonianze essenziali funge da comodo pretesto per l'atteggiamento vendicativo e premeditato dell'autorità giudiziaria nei confronti dei migranti perseguitati. Politiche anti-migrazione. Mentre le contestazioni geopolitiche globali continuano, senza alcun segno di diminuzione, l'espansionismo economico prospera e vari regimi autoritari e fondamentalisti appaiono in ogni angolo del mondo. Fortress Europe implementa la gestione da parte delle polizie militari del flusso migratorio. Sempre più organizzata, prende forma la decisione per la creazione di spazi di eccezione ai confini europei. Spazi in cui tutti coloro che non hanno perso la vita durante i loro passaggi saranno trattenuti e subiranno gravi violazioni e violenze. Per mezzo di un sistema di continuo degrado umano, i migranti saranno classificati come voluti o indesiderati. Quelli voluti serviranno come nuova forza lavoro necessaria dell'Europa, mentre allo stesso tempo forniranno un alibi per le politiche sulla morte contro la migrazione. Il resto sarà inevitabilmente criminalizzato, poiché la loro unica possibilità sarà quella di viaggiare più lontano possibile senza documenti. Dopodiché saranno sfruttati come forza lavoro a basso costo, che è fondamentale per la riproduzione delle strutture di potere manifestate nel capitale locale e globale. La loro unica altra opzione è la deportazione nei loro paesi di origine o in paesi terzi. Inoltre, le popolazioni migranti sono diventate il nuovo nemico interno. I media aiutano nella costruzione di una realtà sotto minaccia in modo da giustificare l'esistenza del totalitarismo come socialmente necessario. I migranti sono ritratti biologicamente e culturalmente inferiori o come portatori di malattie contagiose, mentre sono collocati in campi privi di strutture sanitarie. L'uso di una retorica militaristica con la quale i migranti vengono presentati come invasori giustifica le forze armate greche ed europee a prendere posizioni ai confini, ma anche oltre il loro territorio, per difendere la fortezza Europa. Uno stato di emergenza è stato introdotto in sempre più parti d'Europa, una dottrina che viene fuori, evocando allo stesso tempo la necessaria coesione nazionale e il consenso necessari per la continuazione delle politiche di svalutazione del fondo della società. Tuttavia, guerra contro i migranti significa denaro. L'industria sviluppata a causa della, della governance delle popolazioni migratorie non dovrebbe essere trascurata. Il capitale continua a essere riprodotto sia attraverso attrezzature militari che servono la protezione e la sorveglianza dei confini o attraverso il capitale umano, come conseguenza della diffusa dottrina dell'umanitarismo militare. Dato il contesto, Lesbo è stata scelta per la seconda volta nella sua storia recente come il campo principale per l'applicazione delle politiche di confine antimigrazione all'inizio della cosiddetta rotta del Mediterraneo orientale. Di conseguenza sono emerse nuove forze militari di polizia e diversi tipi di centri di detenzione, oltre all'incoraggiamento di un distacco sociale cruciale al fine di generare consenso per la politica della morte che si sta svolgendo. Il totalitarismo getta un'ombra sulla vita dell'isola, con poche crepe aperte dalla resistenza dei migranti, ma anche da parte di una controsommossa internazionale diffusa, che ha mostrato un'azione multipla e continua. Questi momenti di resistenza, che forniscono un'autonomia breve di durata, fanno sì che i migranti siano sottoposti ad ancora più terrore e violenza per frenarli e isolarli da quelli che li sostengono in solidarietà. Solidarietà per ogni ragione del mondo. La decisione di schierarsi con i 35 arrestati non ha nulla a che fare con la quasi voglia criterio di innocenza forzata, né indica una lotta antirazzista unidimensionale. La persecuzione subita dai 35 può essere capita solo se vista come un altro aspetto delle politiche anti-insurrezionali che sono state stabilite da diversi governi e che ora sono messe in pratica dal governo di sinistra di Sirtia. Il declino dei movimenti per la lotta di classe e dei movimenti sociali porta all'approvazione e all'accettazione di attacchi per le persone che si trovano nel fondo della società. Una platora di strumenti oppressivi di natura poliziesca, giudiziaria, amministrativa ed economica sono utilizzati contro coloro che cercano di resistere. La crescente militarizzazione delle forze di polizia, la creazione di spazi di eccezione come i campi di concentramento dei migranti, la nuova riforma del codice penale e gli attacchi contro i prigionieri resistenti, l'uso di multe come ricatto, come nel caso degli obiettori alla leva obbligatoria, la persecuzione criminale delle lotte sindacali, il degrado ambientale e la persecuzione di chi resiste. Tutti questi sono aspetti dello stesso attacco stato capitalista contro coloro che si trovano nel fondo della società. Attacchi che vanno oltre i confini tradizionali degli stati nazionali. Attraverso la riforma dei quadri giuridici vi è un tentativo di cooperazione transnazionale per frenare le resistenze. cooperazione giudiziaria transnazionale e sviluppo di politiche europee comuni sulla gestione della popolazione. Ma le risposte saranno date a tutti i livelli. Lotte oltre le frontiere, gli stati, le nazioni e i nazionalismi. Il processo contro 35 migranti può essere visto come un processo contro la società che resiste alla continua svalutazione e repressione della propria vita. Le autorità vogliono effettuare il processo utilizzando un buco nero spazio-temporale per limitare ogni azione di solidarietà. Per questo motivo, più urgente che mai, è essenziale rendere pubblico un altro esempio di utilizzo arbitrario del potere diretto verso uno dei gruppi sociali più oppressi. Chiediamo a singoli, gruppi e organizzazioni solidarietà di organizzare iniziative. L'account Twitter Free the Moria 35 e Free the Moria 35 è stato creato per lo scopo della campagna di solidarietà, mentre media auto-organizzati saranno utilizzati per informazioni e aggiornamenti più precisi. Quindi appunto, se volete seguire la questione da vicino, potete andare su Twitter all'hashtag FreeTheMoria35 e avere aggiornamenti in tempo reale. Detto questo, la rassegna stampa è terminata. Non perdetevi dopo di noi Passaggio a Nord-Ovest, stampa rassegnata, e alle 16:30 Fuoco alle Polveri. Con questo vi salutiamo. Un saluto dal Wombat. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti da Med. E a presto. Hey, buon cana. La tiene lì questo scombo. Africano, io tina. Real me soft.